Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno cari ascoltatori ed eccovi il Pinsimonio di quest'oggi. Le parole di oggi sono legate al fare e sono compiere, adempiere, attuare, inverare e ottemperare. Cominciamo con compiere, che nel senso più comune significa portare a termine un'azione o un'opera, giungere al termine di un percorso o di uno spazio di tempo, come per esempio compiere gli anni o a lavoro compiuto. Spesso indica non solo la fine materiale, ma anche la felice riuscita, il buon esito di qualcosa. Ho compiuto la difficile impresa. Altrimenti significa anche mettere in esecuzione o condurre ad effetto, per esempio compiere un misfatto, o anche adempiere, come compiere il proprio dovere, o appagare, soddisfare o avverarsi, si è compiuto il tuo desiderio. In significato più antico invece significava riempire. Continuiamo con adempiere, che anche lui in senso antico significava riempire interamente, come colmare o integrare. In senso più attuale invece significa eseguire pienamente, appunto compiere, mandare ad effetto, adempiere ad una promessa o adempiere al proprio dovere. E altrimenti in un senso meno comune significa compirsi o avverarsi, si adempì la predizione dell'antico profeta. Andiamo con attuare, che significa letteralmente far passare dalla potenza all'atto, quindi comunemente tradurre in realtà, realizzarsi, attuare un progetto, attuare una riforma sociale o un programma. Di significato simile è inverare, che appunto letteralmente significa rendere vero, come dare vita, realtà, concretezza a qualche cosa, inverare un pensiero o un'idea. E per fare una piccola parentesi filosofica, il Treccani dice che inverare nella terminologia hegeliana significa acquistare verità e concretezza nella sintesi dialettica, che concilia tesi ed antitesi superandole nella loro opposta ed astratta unilateralità. E infine l'ultimo significato di questa parola lo troviamo in Dante, che diceva dell'inverarsi come il divenire partecipe della verità. E terminiamo la puntata di oggi con ottemperare, che significa obbedire, eseguendo quanto è prescritto o richiesto, ed è un verbo di una certa solennità, che esprime un atteggiamento di cosciente, spontanea e rispettosa adesione della volontà, senza alcuna idea di costrizione o di servilismo, per esempio ottemperare alle leggi. Io vi ringrazio e vi lascio ora alla rassegna stampa di Radio Zanardi. Vi aspetto domani sempre alle 9:15 sui 103.1 FM di Radio Città Fujiko. Ascolta il Pinsimonio su Radio Città Fujiko oppure in podcast sulla pagina Facebook Il Pinsimonio Radiofonico. La base di oggi è gentilmente offerta da Fulvio della Ragù Records, che si scrive con 2 O e che potete trovare su Facebook, Bandcamp e SoundCloud. Il Pinsimonio è curato e condotto da Maurizio Casertano. Le definizioni delle parole proposte in questo programma sono tratte direttamente dal sito dell'Enciclopedia Treccani, per gentile concessione dell'editore. È vietata qualsiasi riproduzione e utilizzazione di carattere non strettamente personale. Grazie e buona giornata. Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio.